Un cordiale saluto da Armando Turno. Musica Maestro di questa settimana sarà dedicata al 68, alle musiche di questo periodo che fa parte della storia d'Italia a pieno titolo, con canzoni, con momenti di protesta, con cori, con tante cose. Avremo con noi Fabio Treves, esperto di blues, ma anche Mario Capanna, e ascolteremo canzoni non censurate di De André, di Guccini, di Gaber, ma anche altro. A risentirci dunque domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Turno.